E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia. Le 17, 7 minuti, 26 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di che cosa parleremo oggi? Beh, naturalmente parleremo di Europa, del Consiglio Europeo che si è svolto nella giornata di oggi, che si è concluso nella giornata di oggi, nella quale è stato reso definitivo, permanente il meccanismo del fondo anticrisi, mentre continua ad esserci qualche contrasto, anche se forse è rimasto più sotto traccia nella giornata di oggi, sulla questione degli eurobond caldeggiata da paesi come l'Italia, la Spagna, il Portogallo, e che vede invece una netta opposizione da parte di Francia e Germania. Il tutto in una giornata nella quale Moody's ha deciso di intervenire di nuovo ed, oltre ad abbassare il rating, e anche di questo si è occupata, sui Paesi Baschi e quindi su una parte della Spagna, ha deciso anche di tagliare il rating dell'Irlanda, ma non di un livello, di 5 livelli. E come al solito in queste occasioni ci si chiede quanto questi interventi siano tempestivi. I vostri commenti sono graditi al 349-238-6666. Parleremo anche di alluvione in Veneto, perché nei giorni scorsi sono arrivati i primi 300 milioni, sono arrivati per davvero questa volta a quanto pare, e ne ha decisa la distribuzione il commissario straordinario, che è anche il presidente della regione, Luca Zaia, e lo intervisteremo. E poi parleremo di un paese che, in un clima nel quale si parla moltissimo di austerity, soprattutto in Europa, e persino paesi che corrono parecchio come la Germania varano dei programmi di contenimento della spesa, c'è un paese invece che decide di prorogare i tagli fiscali. Si tratta, lo sapete, ve ne abbiamo parlato nei nostri giornali radio, degli Stati Uniti, e vedremo appunto in che misura, insomma, c'è stato un accordo questa notte, l'accordo definitivo tra Barack Obama e i repubblicani al Congresso, tra l'altro con l'opposizione di qualcuno dei democratici. Tutto questo tra poco. Prima, come sempre, le notizie in breve di questa giornata. È già iniziate al 349-238-6666. Non male questa, meglio Moody's che gli stress test finti. Materie prime innanzitutto, come sempre a New York, aperto stabile il petrolio ad $87.50 al barile, mentre l'oro è salito di mezzo punto percentuale a $1.376.55 l'oncia. Per quanto riguarda, abbiamo detto il petrolio, per quanto riguarda la benzina invece ha sfondato il muro degli 1,46 euro al litro, un livello che non si toccava dal settembre 2008, in particolare per quanto riguarda i distributori Tamoil. Nei no logo siamo a 1,372 euro al litro. Ci sono i dati su fatturato delle imprese, che sembrano su fatturato e ordinativi delle imprese, che sembrano confermare sostanzialmente quello che dicevamo ieri, che emergeva dal rapporto di Confindustria. E infatti gli ordini in ottobre sono fermi su base mensile, sebbene si registri una crescita del 12,4% su anno. Per quanto riguarda il fatturato, più 1% su mese, più 13,3% su anno. Per quanto riguarda invece nello specifico il settore auto, sempre date dell'Istat, a ottobre il fatturato è sceso del 2,5%, gli ordini del 19%. E a proposito di auto, a proposito di Fiat, ci sono da registrare oggi le parole del ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, che oggi ha riunito i sindacati per fare il punto su alcune vertenze, le più importanti, le più difficili. Romani dice: il governo non può che guardare con attenzione al processo sulle rinnovate relazioni industriali, ma si augura che le promesse fatte da Marchionne siano mantenute. Sentiamolo al microfono di Nicola Filippone dell'agenzia di stampa Radio Corri, Il Sole 24 Ore. Rimango convinto che sia necessario per il nostro paese che Fiat abbia intenzione di mantenere la promessa fatta rispetto agli investimenti e alle piattaforme che intende portare al nostro paese. Mi auguro che le istituzioni nazionali e locali e le relazioni sindacali rinnovate, come Marchionne ha in testa, possano rappresentare un punto di partenza e non un punto di conflitto, perché questo investimento avvenga. E siamo convinti che il nostro paese debba rimanere un grande paese manifatturiero, quale oggi è il secondo in Europa dopo la Germania. Auguro quindi la trattativa in corso, anche dura, che porti esito positivo, e quindi il governo non può che guardare con attenzione a questo processo, augurandoci, e lo ribadisco, che le promesse fatte nella presentazione in aprile di quest'anno e in successivi incontri, in successive occasioni, dalla di Marchionne, portino al mantenimento delle promesse. Il ministro Romani si è poi soffermato sulle offerte per lo stabilimento siciliano di Termini Imerese che Fiat chiuderà a fine 2011. Il lavoro di Invitalia è stato molto buono, perché ricorderete che le manifestazioni di interesse furono 31 inizialmente e quindi siamo arrivati a una short list. La cosa interessante, a direi molto interessante, è che sono tutte iniziative che non sono alternative l'una all'altra. Questo è un dato interessante che sta emergendo. Ce ne sono due dell'area dell'automotive, ok. Però le altre non sono dell'area dell'automotive, ma tendenzialmente potrebbero essere, se adeguatamente supportate, iniziative all'interno di un distretto industriale nuovo e rinnovato di Termini Imerese. Quindi adesso stiamo cercando di verificare quali possono essere le compatibilità. C'è anche qualche presa di posizione sindacale. Roberto Di Maulo, segretario generale della FISMIC, a margine del direttivo del sindacato autonomo che si è svolto oggi a Torino, dice: l'accordo tra Fiat e sindacati non si farà prima di Natale ed è un segnale negativo. E veniamo appunto al taglio del rating da parte di Moody's. Continuano ad arrivare i vostri messaggi. Fulvio ci scrive ad esempio che Moody's si comporta, insomma, chiude la stalla quando i buoi sono già scappati, e così fanno tutte le agenzie di rating. Comunque, la notizia è che Moody's appunto ha tagliato il rating di 5 livelli per l'Irlanda, tra l'altro con un outlook negativo, e stima che le 6 banche irlandesi nazionalizzate dal governo di Dublino potrebbero aver bisogno di oltre 90 miliardi di euro di finanziamenti da parte della BCE, più altri 40 da parte della Banca Centrale Irlandese. E sempre Moody's ha messo sotto osservazione il rating di 6 banche della Grecia per un possibile declassamento. Tra l'altro, sempre in tema di Irlanda, la BCE ha annunciato l'accordo per una linea temporanea di swap, di scambio, con la Banca d'Inghilterra per garantire alla Banca Centrale dell'Irlanda finanziamenti in sterline se sarà necessario. E nel frattempo l'Istituto Britannico Lloyds ha annunciato che prevede un aumento di 4,3 miliardi di sterline, 4,3 miliardi delle svalutazioni su perdite sui prestiti in Irlanda. C'è la delusione sulla notizia di Moody's da parte del primo ministro irlandese Brian Cowen, e c'è anche il giudizio del presidente francese Nicolas Sarkozy, che parla di una decisione sorprendente. Una decisione che non capisce, e ribadisce Sarkozy la sua piena fiducia nell'azione intrapresa dal governo irlandese. Per quanto riguarda la Spagna, invece, l'altro fronte, il debito pubblico al 57,7%, al record dal 2000, mentre tra l'altro il governo di Madrid ha indicato di prevedere che il debito arrivi al 62,8% alla fine dell'anno. E siamo quindi al primo tema di questa giornata, che è proprio la crisi europea. abbiamo colpevolmente omesso di darvi in apertura come stanno andando i mercati. Allora, oggi è la giornata delle famose tre streghe, succede 4 venerdì all'anno, scadenza dei futures su indici, azioni e opzioni. Comunque sia, il quadro è complessivamente negativo, l'America perde lo 0,26%, Parigi lo 0,34%, Francoforte lo 0,36%, ma la peggiore, indovinate un po'? È Milano, meno 1,27% in questo momento, cede circa l'1,10% invece Madrid. Il FTSE share perde l'1,15%, il FTSE MIB appunto l'1,25%. Euro che quota 1,31,36 contro dollaro. Allora, i leader dei 27 hanno deciso di creare un fondo salva stati permanente a partire da metà del 2013 per sostituire quello temporaneo. Si sono impegnati a fare tutto il possibile per garantire la stabilità dell'euro. Una dichiarazione di principio, vedremo che cosa succederà poi. Il Consiglio ha approvato anche il testo del progetto di decisione per la modifica del Trattato di Lisbona. Ha deciso di avviare immediatamente la procedura semplificata di revisione. Allora, il nuovo fondo che cosa farà? Sostituirà il fondo temporaneo, che scade a metà 2013, dispone di 750 miliardi di euro, di cui 440 miliardi messi a disposizione dell'Unione Europea. Secondo Angela Merkel, il fondo permanente avrà risorse sufficienti, secondo, e questo è il quadro, e tra gli altri impegni presi dal Consiglio europeo, gli Stati membri si adopereranno per prorogare i termini di scadenza delle loro nuove emissioni di obbligazioni a medio termine per evitare picchi di rifinanziamento. Sulle decisioni prese oggi dal vertice europeo, Sergio Nava ha intervistato l'economista Daniel Gross, direttore dell'Istituto del Centro per gli Studi di Politica Europea di Bruxelles. Ascoltiamo. Penso che questo sia stato soltanto un regalo di Natale a Angela Merkel, perché così ha, come dire, una noia di meno con la sua Corte Costituzionale, ma in fondo sulla sostanza oggi non hanno deciso proprio niente. Cos'è che l'ha delusa di più? Si sapeva fin dall'inizio che inserire due frasi nel trattato che permettono all'Unione Europea, piuttosto ai Stati membri, di salvare un altro Stato, era un esercizio piuttosto in favore dei tedeschi per risolvere un problema giuridico interno tedesco. Sul piano europeo, sul piano giuridico, non risolve niente, soprattutto non hanno discusso di come spezzare il legame tra l'insolvenza possibile delle banche e degli Stati nei paesi periferici, e questo è il nocciolo della questione che rimane tuttora aperto. Tra l'altro, sugli Eurobond, Francia e Germania, a quanto si apprende, avrebbero detto prima una politica fiscale o almeno una convergenza delle politiche fiscali europee, e poi forse parliamo di Eurobond. Lei condivide questa analisi? Nessuno può veramente disputare questa posizione, perché è chiaro che quando ci sono dei bond comuni bisogna anche mettere la politica fiscale in comune. Come? Quando? Tutto questo rimane ancora da discutere. Se si pensa all'opposizione dei moltissimi stati contro l'idea delle sanzioni automatiche, si capisce che diventa un po' difficile parlare dei bonds comuni se poi il rischio è sopportato da tutti. Il mancato aumento del fondo temporaneo salva stati, con, diciamo, i rischi che incombono ora su Portogallo e forse Spagna, pone un pericolo nell'immediato? Ma su questo penso era molto difficile fare un passo in avanti senza dire abbiamo aumentato il fondo perché sappiamo già che abbiamo bisogno di più soldi, perché ci sono più problemi. Per cui capisco quelli che dicono per il momento non diamo altre cifre, ma penso il livello politico ha chiaramente indicato che se ci fosse veramente bisogno di più soldi poi si troverebbero. Sono il problema è piuttosto a quale scopo utilizza questi soldi, per le banche o per gli stati. Il Fondo Monetario Internazionale, col suo direttore Strauss-Kahn, ieri ha criticato pesantemente l'Europa, insomma ha parlato di un'Europa che tappa i buchi, agisce con frammentarietà, non ha una politica coerente di salvataggio o anticrisi, potremmo dire. Lei condivide questa analisi o Strauss-Kahn ha esagerato? No, lui ha centrato veramente il problema. Il problema, come ha detto lui, è questo problema tra stati e banche. alcuni stati hanno delle banche che hanno fatto troppo perdite e l'Unione Europea ha sempre detto finora voi dovete salvare le vostre banche alle vostre spese e se voi poi avete difficoltà vi prestiamo i soldi. Ma questo è andato oltre il limite sopportabile per l'Irlanda e non si sa se sarà possibile ripetere lo stesso approccio per la Spagna. È lì che manca un approccio globale ed è lì che nessun progresso è stato fatto. Allora, citava il nostro Sergio Nava nell'intervista il Fondo Monetario Internazionale. A proposito di Fondo Monetario, anche oggi l'FMI, lo staff del Fondo Monetario, torna a parlare di rischio di contagio da parte dell'Irlanda e anche qua, in termini forse anche di continenza verbale, come dire, non siamo proprio tranquilli, insomma, non sono proprio messaggi rassicuranti per i mercati. Ancora i vostri messaggi su Moody's. C'è chi paragona la celerità e l'affidabilità delle agenzie di rating alla Fiat Duna, per chi se la ricorda. Saluto Antonio Pollio Salimbeni, corrispondente da Bruxelles per Radio Corriere del Sole 24 Ore. Antonio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, abbiamo toccato il tema dell'estensione del fondo permanente anticrisi. Su quello, come dire, c'erano pochi dubbi che sarebbe avvenuto. Insomma, in sostanza era di fatto quasi solo una ratifica. Mentre invece mi sembra che rimanga al centro, e su questo al centro della discussione, almeno per quanto ci riguarda, e su questo poi ascolteremo anche la voce del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, e del Presidente della Commissione Europea Barroso, rimane sullo sfondo la questione degli eurobond, ossia la proposta italiana, spagnola e portoghese, che insomma dalle parti del nord Europa e non solo non viene vista un granché bene, Antonio. Beh, sì, diciamo che c'è stato il fuoco di sbarramento contro da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel e da parte di Sarkozy, sia pure quest'ultimo con toni leggermente diversi. Per Angela Merkel l'Eurobond è una proposta sostanzialmente irrealistica e negativa perché fa deviare l'attenzione per quanto riguarda la necessità di concentrarsi, che i governi si concentrino sul consolidamento rapido delle finanze pubbliche. Per Sarkozy si tratta di una proposta senza senso nelle condizioni attuali, in quanto non esiste un livello accettabile, un livello purché che si possa chiamare tale, di integrazione e di coordinamento delle politiche economiche e in particolare delle politiche fiscali. Detto questo, sia Berlusconi che il presidente dell'Eurogruppo, il lussemburghese Juncker, hanno chiesto alla Commissione di avviare uno studio di fattibilità. Sappiamo che idee a livello comunitario cominciano a viaggiare, a camminare più o meno velocemente, proprio a partire da un'analisi tecnica. È possibile che se sono rose fioriranno, certo. Questa è un po' la posizione espressa da... Certo, Antonio, no, volevamo capire esattamente cosa, a che tipo di meccanismo sta pensando l'Italia, a che tipo di meccanismo sta pensando la Spagna, se ci sono divergenze, come funzionerebbe questo Eurobond? Ma dobbiamo restare a quanto avevano scritto nella lettera di 15 giorni fa, pubblicata dal Financial Times, Juncker e il ministro dell'economia Tremonti. La loro idea è quella di creare un'agenzia europea del debito, di emettere una parte inferiore alla metà del debito nazionale in debito in titoli europei comuni, titoli comuni che sostituirebbero quindi una parte soltanto del debito nazionale in scadenza. Questi titoli godrebbero di tassi di interesse relativamente più bassi rispetto a quelli che soprattutto i paesi meno virtuosi riuscirebbero a piazzare, a ottenere, e d'altra parte non sarebbe eliminata quella concorrenza, qui tiene molto la Germania, sui tassi di interesse per i titoli emessi e per la parte nazionale del debito. Ma in sostanza si tratta di una, quasi di una rivoluzione totale, nel senso che una buona parte del debito nazionale, del debito pubblico nazionale, sarebbe comunitarizzato, sarebbe collettivizzato in qualche misura, quindi ne sarebbero responsabili in solido stati diversi. È una rivoluzione. E qua si capisce anche perché la Merkel non abbia alcuna voglia di mischiare i Bund con titoli di Stato magari italiani o ancora peggio spagnoli o irlandesi. Certamente, cioè, da un certo punto di vista la Merkel ha ragione nel momento in cui dice, però attenzione che questa è un rischio, ci fa rischiare di cambiare completamente obiettivo, non si parla più, non si mette più al centro il consolidamento delle finanze pubbliche, ma si mette al centro, diciamo, la collettivizzazione, la comunitarizzazione del debito. D'altra parte però si tratta di capire se questa idea, diciamo tra virgolette rivoluzionaria, e può essere una leva per approfondire l'integrazione delle politiche economiche e anche in prospettiva delle politiche fiscali in Europa, oppure, per esempio, come dice Sarkozy, dovrebbe essere la conseguenza. Sono due visioni politiche proprio opposte. In ogni caso non diamo per scontato che la porta sia stata chiusa, anzi la porta è stata aperta, sarà una porta, è stata quantomeno dischiusa, ecco. Non c'è stato il no della Merkel e il conseguente no di Sarkozy, ma per esempio si è saputo che i capi di governo portoghese, spagnolo e greco avrebbero voluto addirittura scrivere una lettera perdona se ti interrompo, è anche comprensibile, insomma, visti i rendimenti che stanno raggiungendo, al di là dei greci che non torneranno sul mercato prima, adesso non ricordo, forse ricordami tu la data, 2012 o 2013, fine 2012, al di là di loro, insomma, con i rendimenti che stanno avendo in queste ore Portogallo e Spagna, ne abbiamo parlato ieri e l'altro ieri, insomma, lo credo che appoggiano l'idea, no? Sì, certamente, naturalmente non è che una soluzione del genere, un'ipotesi del genere può essere improvvisata in giro di 3 mesi, se ne parlerà per 3 anni e forse tra 5 andrà in porto, cioè è una visione di lungo questa, non è una visione di breve. È chiaro che però le visioni di lungo in questo momento possono servire per cementare la fiducia sul breve. È proprio questa la mancanza. Adesso, paradossalmente, con questo, col fondo permanente anticrisi, eccetera, abbiamo più chiarezza su quello che succederà dopo, da qui a 2 anni, che non su quello che può succedere a breve in questi mesi. È un po' paradossale, ma la situazione è questa. Ultima cosa che ti chiedo, vorrei capire un attimo, ultimo tema che vorrei trattare, è un pochino il clima che si sta respirando intorno all'Irlanda in queste ore. Insomma, la notizia per quanto riguarda il fondo salva stati in crisi l'abbiamo data. Vorrei capire un attimo che cosa sta emergendo, che cosa è emerso da questo Consiglio europeo, perché, come si diceva prima, di nuovo il Fondo Monetario Internazionale, non è la prima volta nelle ultime settimane, è tornato a richiamare, a riparlare di rischio di contagio. Ecco, dai leader europei che cosa sta filtrando? Cioè, questo timore è forte o comunque c'è la convinzione che, al di là di quello che poi ci diceva Daniel Grosso, insomma, una certa incapacità di coordinamento, c'è la percezione che si possa salvare l'Irlanda con una certa tranquillità e che questo meccanismo anticrisi possa funzionare effettivamente anche per il futuro? Ma questa domanda nessuno può dare una risposta sensata, diciamo la verità. I governi mai diranno che temono che la vulnerabilità di Spagna e Portogallo si trasformi in tracollo, e anche senso che non lo dicano. Il problema è che continuano comunque a ribadire, a ogni piè sospinto, ogni 3 ore, che i governi dell'Eurozona faranno di tutto per evitare una crisi sistemica dell'Eurozona. E lo dicono anche in riferimento sia alla dotazione finanziaria in termini di garanzie governative del fondo anticrisi da cui preleverà l'Irlanda, sia del fondo futuro, di cui non si ha neanche la minima idea oggi, a meno nulla è trapelato in questo senso, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva. Detto questo, e quindi non è soltanto la solita cosa per parare le cattive notizie, insomma, effettivamente la preoccupazione è a livello rosso, non è, esiste. Naturalmente c'è sempre un divario fra ciò che si combina in queste sedi, ciò che si decide sul piano politico e istituzionale, e ciò e qual è la percezione dei mercati, e lo si è visto con la questione della valutazione dell'agenzia della nuova valutazione sull'Irlanda. Ora da parte delle agenzie di credito, ora l'agenzia di rating, scusate, sì. È evidente che c'è sempre uno iato, un divorzio, fra uno scarto fra la decisione politica e ciò che percepiscono i mercati. D'altra parte è vero che probabilmente rispetto a una crisi di Spagna, di Portogallo e poi di Spagna, il fondo attuale, la facility attuale di garanzia non è sufficiente, seppure abbia nominalmente 440 miliardi. È vero che l'Irlanda avrà bisogno soltanto del 4% di questi 440 miliardi, quindi non è stato praticamente utilizzato. Detto questo, di fronte a una crisi della Spagna, è evidente che lo scenario è completamente diverso da quello che abbiamo oggi di fronte a noi. Ovviamente. Grazie ad Antonio Pollio Salimbeni, corrispondente di Radio Corriere del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Antonio. Grazie a voi, arrivederci. Tra poco torneremo sui temi europei e ci ascolteremo le voci da questa giornata, comprese, come si diceva, quelle del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ma prima è il momento dei mercati. Livia Zancaner, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, dicevamo in apertura, indovinate un po' qual è la borsa peggiore d'Europa, o quasi naturalmente, fatta eccezione per Dublino, è proprio Milano, meno 1,46%, mentre Madrid ha perso circa l'1,10% e le altre hanno fatto, pur in negativo, decisamente meglio nel cosiddetto giorno delle tre streghe. Livia. Sì, allora Milano come al solito è stata penalizzata dall'andamento dei titoli finanziari, che rappresentano bene o male il 30% della capitalizzazione dell'intero listino, quindi le banche hanno chiuso la seduta in netto calo, risentendo da una parte quindi dei rinnovati timori sul debito sovrano dei paesi dell'Eurozona dopo la decisione di Moody's di tagliare il rating sull'Irlanda, e dall'altra parte dalle stime di Banca Italia, che ieri appunto comunicato che le banche italiane, per adeguarsi alle nuove regole di Basilea 3 che entrano in vigore nel 2019, avranno bisogno di capitale per 40 miliardi di euro. Quindi Milano ha chiuso registrando una performance peggiore rispetto alle altre piazze finanziarie, in linea bene o male con Madrid. Sì, dati che erano stati già diffusi ieri, questi dei 40 miliardi di ricapitalizzazione, che quindi evidentemente continuano ad avere un impatto sui mercati. Veniamo ai singoli titoli, iniziamo da Telecom Italia. Sì, allora Telecom Italia oggi ha chiuso in calo, arrivando in calo dell'1,8% circa, arrivando a perdere in tre sedute il 4% circa. Allora, in particolare per quanto riguarda il risultato di oggi, il titolo ha scontato la decisione presa e comunicata ieri dal Consiglio di Amministrazione di non introdurre all'ordine del giorno della prossima assemblea l'eventuale esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli ex vertici, in sostanza della gestione precedente di Marco Tronchetti Provera. Quindi gli estremi per un'azione di responsabilità ci sarebbero stati, ma le opportunità di successo al momento sono state giudicate quindi troppo basse, e i consiglieri hanno deciso di soprassedere. È stata immediata la reazione di Asati, che è l'associazione dei piccoli azionisti, che ha definito tale decisione uno scandalo e ha chiesto ai sindaci, alla Consul, alla Procura di Milano di procedere con indagini approfondite. Allora, sul listino troviamo da due lati opposti due titoli del risparmio gestito, perché Mediolanum è il peggiore, lascia sul terreno il 3,5%, Azimut invece il migliore, più 3,14%, c'è un motivo particolare, Livia? Allora, per quanto riguarda Azimut, dalla sala operativa hanno evidenziato che si tratta di un rinnovato interesse da parte dei fondi. Infatti bisogna sottolineare che Azimut da inizio anno ha perso circa il 30% e negli ultimi giorni è stato comunicato al mercato l'ingresso nel capitale con il 2% da parte di un nuovo fondo che è Cantillon Capital, quindi praticamente gli acquisti sarebbero stati innescati dall'ingresso di questo nuovo fondo nel capitale, un fondo che affianca quindi altri già presenti in azimut come Aviva, Fidelity, BlackRock e Goldman Sachs. A chi ce lo chiede, su Finmeccanica no, non ci sembra ci siano novità sull'inchiesta, e sì, il titolo è in controtendenza, anche se lieve, un più 0,24%. Bene anche Prysmian oggi, Livia. Sì, allora Prysmian ha beneficiato... O meglio, bene, sì, un più 1,02%, sì, in realtà. Prysmian è stata la migliore di tutto il listino per quasi tutta la giornata e poi arretrata nelle ultime battute della seduta, quindi perdendo terreno. E il titolo, allora, ha beneficiato da una parte dell'aggiudicazione comunicata ieri di un contratto da 90 milioni e dall'altra dalle scommesse su un esito positivo dell'offerta per l'acquisizione dell'olandese Draco, un'operazione che va avanti da un po' di giorni e settimane. Infatti Draco oggi ha espresso nuovi dubbi sulle trattative con la società cinese Xinmao, che è in corsa come Prysmian per l'acquisizione che tra l'altro, ha offerto una quantità di cash impressionante rispetto a Prysmian. Allora, Livia Zancaner di Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, ti porterei su RCS. Sì, allora RCS ha chiuso in controtendenza con un rialzo dello 0,94% nel giorno del CDA della presentazione del nuovo piano industriale. Quindi la società prevede nel 2010-2013 un risultato operativo in rialzo da 80 milioni a 201 milioni, quindi nel 2013, e prevede dismissioni di attività o asset non strategici. E, inoltre, l'amministratore delegato Antonello Pericone ha detto che la società tornerà a remunerare gli azionisti con dividendi per 75 milioni nel 2011-2012. Bene, grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, grazie in particolare a Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. E un quadro finale di giornata con Azimut che guadagna il 3,14%, Geox il 2,28%, Saipem l'1,96%, un punto percentuale per Tenaris e Prysmian, come si diceva, mezzo punto per Bulgari, Talcementi e Campari lo 0,4%, Finmeccanica lo 0,24% e Fiat lo 0,2%, così come ST Microelectronics e il Monte dei Paschi che guadagna lo 0,18%, mentre CIR è in perfetto pareggio. Tra i titoli negativi, come si diceva, i bancari sotto di oltre 3 punti percentuali, Mediolanum, Intesa San Paolo e Unicredit, giù Mediaset del 2,4% e Mediobanca del altrettanto, del 2,3% generali, Snam e Rete Gas meno 2,29%, il Banco Popolare il meno 2,2%, meno 2 punti percentuali per A2A, meno 1,8% per Telecom Italia, come si è detto, meno 1,7% per l'Automatica e UbiBanca, meno 1,7% anche per la Popolare di Milano, Terna meno 1,4%, Autogrill meno 1,3%, così come Atlantia e Pirelli, Eni giù di oltre un punto percentuale, Enel altrettanto in pregilo e Fondiaria altrettanto, meno 7 per Luxottica, meno 6 per Ansaldo. E ora ritorniamo a parlare di Europa. E adesso sentiamo le voci dei protagonisti di questa giornata, a partire dal Presidente della Commissione Europea, José Manuel Durão Barroso, che respinge le critiche di chi giudica l'azione dell'Europa contro la crisi inadeguata. Il 2010 si chiude con grandi risultati ottenuti dal Consiglio europeo. Questa mattina abbiamo confermato gli importanti accordi raggiunti ieri nel corso di discussioni molto aperte sulla situazione economica dell'area euro. Discussioni che rappresentano proprio l'intenzione di fare tutto ciò che è necessario per sostenere la stabilità finanziaria della zona euro. E non si tratta solo di una dichiarazione solenne, ma è una dichiarazione a cui seguono impegni concreti, impegni che sono alla base degli accordi raggiunti ieri sul futuro meccanismo permanente anticrisi e delle modifiche al Trattato di Lisbona che permettono l'introduzione di questo meccanismo permanente. Ci sono ancora lezioni che dobbiamo imparare, come la necessità di agire in modo più coordinato, così da aumentare il nostro peso nei processi di negoziazione. Occorre anche aumentare le sinergie tra diverse politiche interne e definire gli obiettivi principali per l'Unione nel suo complesso. Europea. Tra l'altro, il Presidente della Commissione Europea ha lanciato un appello a restare uniti nella comunicazione. Ha parlato anche il Presidente dell'Europa, del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy. Ha detto: se l'idea dell'Eurobond è valida, maturerà. E poi ha detto: siamo pronti a tutto per la stabilità. Ieri abbiamo aggiunto un tassello importante al lavoro portato avanti per far sì che l'economia europea sia più resistente alle crisi. Abbiamo trovato un accordo su modifiche al Trattato di Lisbona che permetteranno la costituzione di un meccanismo permanente anticrisi per garantire la stabilità della zona euro. I leader dell'area euro hanno anche voluto sottolineare che esiste una strategia economica comune e la volontà politica, per quanto è necessario, per assicurare la stabilità economica e finanziaria. La strategia comune fa parte delle nostre conclusioni, che comprendono anche il consolidamento dei conti pubblici, crescita economica e gestione della crisi. Gli elementi di questa strategia saranno sviluppati ulteriormente nei prossimi mesi nell'ambito di una risposta coordinata alle sfide in un contesto di nuova governance economica della zona euro. As part of the Eurozone's new economic governance. Così Van Rompuy sul fronte degli eurobond. Vi abbiamo già detto delle posizioni di Angela Merkel, che dice che è un'ipotesi non realistica, un progetto che non ha senso, almeno al momento, secondo Nicolas Sarkozy. E poi ha parlato il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dice: ora l'euro ha una sicurezza irreversibile. E poi gli eurobond, sul fronte degli eurobond, ma anche su pensioni e sulla necessità che ci sia un coordinamento a livello europeo su questi temi, ha parlato così. Io adesso ho avuto un incontro abbastanza lungo con il prossimo presidente di turno dell'Unione Europea, con Viktor Orbán. Gli ho suggerito, su sua richiesta, i temi su cui dovrebbe impegnarsi, quello per esempio di mandare avanti il progetto di una difesa comune dell'Europa, che ci porterebbe a risparmiare molto come spese di bilancio e che ci porterebbe finalmente ad avere una forza europea che potrebbe trattare alla pari con forze come quelle degli Stati Uniti, della Federazione Russa, della Cina, mentre oggi le nostre forze nazionali sono dei nani che devono accodarsi alle decisioni degli altri. E poi c'è anche il tema delle pensioni, l'età media che continua a salire. Noi abbiamo fatto una buona riforma delle pensioni, ma molti Stati hanno ancora delle età di pensionamento che sono troppo basse, il che comporta una perdita di forza lavoro e dei costi per i bilanci dello Stato. Ecco, il mio parere è che dovrebbe essere l'Europa a interessarsi di questo problema, in modo tale che i singoli Stati possano poi approvare una cosa decisa centralmente dall'Europa, perché altrimenti nessun governo se la sente di perdere consenso approvando una legge delle pensioni che sposta troppo in su a 67-68 anni l'età della pensione. Ecco, abbiamo parlato di tutte queste cose e naturalmente abbiamo parlato anche dell'euro e degli eurobond, e credo che per quanto lo riguarda lui sia abbastanza indirizzato a studiare a fondo la questione. Vedremo che cosa succederà sul fronte degli eurobond, però gli viene posta anche una questione tra la politica e l'economia al Presidente del Consiglio, ossia i rischi della creazione di un asse franco-tedesco che crei qualche problema agli altri paesi. Così Berlusconi. Ma io non chiamerei di uno strapotere, vede, anche perché poi alla fine si risolve in una mancata adesione alle loro iniziative da parte degli altri Stati, che vogliono essere coprotagonisti e partecipi di ogni decisione. Noi molto spesso siamo chiamati a ragionare insieme a loro, però il fatto che i paesi principali, noi siamo il terzo paese europeo, siamo il terzo contributore dell'Europa, e siamo anche normalmente coinvolti nelle decisioni più importanti, nelle discussioni più importanti. Non ho da lamentarmi io in particolare, anche perché poi c'è un'intensa collaborazione anche a livello telefonico sia con Angela Merkel che con Nicolas Sarkozy, con cui ho degli ottimi rapporti, non soltanto di colleganza tra primi ministri e altro, ma anche dal punto di vista amicale. Noi adesso, dopo aver parlato ampiamente di Europa e di mercati, ci occupiamo dell'alluvione in Veneto. Allora, le stime dei danni complessivi, lo sapete, sono di circa 1 miliardo di euro. Le vittime furono 3, ci furono almeno 8.000 aziende temporaneamente bloccate dal disastro. Il governo ha annunciato l'arrivo in tempi rapidi di 300 milioni di euro, la sospensione delle rate sui mutui di chi ha avuto la casa allagata o danneggiata. Oggi il presidente del Veneto ha annunciato che i primi soldi sono a disposizione, ci ha appena raggiunto in collegamento. Buonasera a Luca Zaia. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, voi state decidendo, presidente, o avete deciso la prima destinazione di questi 300 milioni di euro. Ci può indicare come, in che modo e dove verranno distribuiti? In maniera molto inusuale e irrituale ho deciso di stanziare direttamente a favore dei comuni che poi provvederanno per le singole realtà, quindi per le singole imprese, le singole famiglie, ad erogare in virtù dei criteri che ogni comune si darà. Quindi lei ci dice irrituale perché normalmente questo non avviene, normalmente il commissario all'emergenza prende e decide anche per le singole realtà. Questo è quello che accade e accadeva fino a prima. Per quel che mi riguarda, ho deciso, da federalista convinto, di delegare in toto tutta la partita dei comuni. Per cui i comuni hanno già da qualche ora queste risorse nelle casse comunali e saranno in grado di dare risposta puntuale ai cittadini. E noi dobbiamo ricordare che la nostra squadra dei sindaci è una squadra eccezionale che è vicina ai cittadini e quindi anche ai loro problemi. Ci può dare un quadro allora a questo punto, presidente, dal lato territoriale, diciamo così, insomma, come sono stati distribuiti questi 300 milioni? Naturalmente non le chiediamo comune per comune, insomma, magari un quadro più o meno provincia per provincia, se ci può aiutare. Ma i 100 milioni di acconto sono stati distribuiti dividendo i 327 comuni coinvolti dall'alluvione in 4 categorie. I grandi alluvionati, che sono il comune di Vicenza, Casalcerullo, Salento, Caccia, insomma, la grande alluvione, gli alluvionati, mediamente alluvionati e chi ha avuto danni dalla pioggia importanti, ma non da mettere a ferro e fuoco, brutto termine, tutto il comune. Il che significa che comuni come Vicenza hanno già un primo acconto di quasi 20 milioni di euro. Questo per quanto riguarda i primi stanziamenti. Ecco, sul fronte dell'alluvione, sul fronte della conta dei danni, è successo un fatto che devo dire ci ha colpito abbastanza. Ai nostri microfoni, nei giorni scorsi, il sindaco di Vicenza ha detto: guardate, avevamo richiesto uno stanziamento di una cifra intorno ai 130 milioni, in realtà la richiesta da parte del comune è molto inferiore, sono circa 85 milioni, perché alla fine la gente si è arrangiata. Insomma, questa discrasia tra la richiesta iniziale e la richiesta finale, presidente, è oggettivamente qualcosa di molto raro, direi, se non unico in questo paese. Beh, direi anche molto veneto, perché comunque io ci voglio dare anche un'altra lettura. Ha ragione il sindaco di Vicenza quando dice: vabbè, poi si sono arrangiati da soli. Però so anche che molti cittadini hanno preferito fare da soli per lasciare più risorse a veramente ai veri poveri, ai veri danneggiati dall'alluvione. E un danno di una casa distrutta non vale ovviamente come proporzione come un garage allagato. E c'è qualcuno che ha avuto il garage allagato che ha detto: me lo pago con i miei soldi e questo è il mio contributo agli alluvionati. Non c'è, presidente, anche l'altro fronte, ossia il timore di infilarsi in una trafila burocratica pesantissima per ottenere i finanziamenti e quindi alla fine si dice, insomma, dato che tutto sommato i soldi non mi mancano, insomma, non sono disperato, tutto sommato me la cavo da solo e pazienza. Beh, guardi, la burocrazia è stata ridotta al minimo, quindi ce n'è veramente poca. Forse la preoccupazione è stata quella di far fronte subito ai danni personalmente. Poi per una certa quota la dichiarazione dei danni, dell'inventario dei danni è anche scesa, perché poi bisogna avere anche le pezze giustificative. Molto probabilmente le stime spannometriche di previsioni poi di fronte dei preventivi puntuali che i cittadini si sono fatti fare hanno dimostrato che magari si poteva aggredire il problema spendendo di meno. Un'ultima domanda che le faccio, Presidente, riguarda i prossimi mesi. Allora, abbiamo detto che le stime al momento sono ferme al miliardo di euro complessivo. Probabilmente queste stime a questo punto immaginiamo che verranno ridotte naturalmente, e questa è un'altra domanda per lei, cioè se verranno ridotte oppure no, quali saranno i prossimi passi? Perché comunque sia, per quanto vengano ridotte, questi 300 milioni non basteranno naturalmente. Ma guardi, io sono convinto che le stime non saranno ridotte a livello generale, perché comunque abbiamo tutta la partita delle opere di messa in sicurezza dei territori, che sono bacini di laminazione, casse di espansione, nuovi argini, pulizia dei fiumi per mettere in sicurezza tutte le nostre città e i nostri comuni, per cui sarà di gran lunga superiore al miliardo. E la verità è che dobbiamo far veloci e fare in modo di mantenere la parola con i cittadini, quella parola che anche il Presidente del Consiglio ha voluto dare sul fronte del finanziamento poi delle opere pubbliche. Di gran lunga superiore quanto? Ma guardi, noi abbiamo delle prime stime, dovremmo passare abbondantemente il miliardo di euro con le opere messe in sicurezza. Ultima domanda, Presidente, come le dicevo, i prossimi passi, cioè dopo questi primi 300 milioni, gli altri soldi quando arriveranno, in che modo arriveranno, con che distribuzione? Beh, questo si tratterà di negoziarlo con il governo, visto e considerato che abbiamo un fronte aperto. Io comunque voglio chiudere tutta questa partita, desidero chiuderla entro marzo. Grazie, grazie dunque al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e anche nella veste di commissario straordinario all'emergenza alluvione in Veneto. Buonasera. Grazie. Grazie, buona grazie, serata. Buonasera. Intanto una notizia appena abbattuta all'agenzia di stampa Radio Cuore Sole 24 Ore: il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi ha approvato il progetto di riorganizzazione della rete commerciale e del gruppo. Si prevede un taglio di costi di 180 milioni di euro. Forse anche in attesa di tutto ciò che il Monte dei Paschi è tra le poche banche che si è salvata nella giornata di oggi, un guadagno dello 0,18%. A proposito di tagli, però, mentre molti paesi, tra cui l'Italia, operano in questa direzione, ossia si muovono in termini di austerity, di diminuzione delle spese, e questo avviene perfino in Germania, che forse non ne avrebbe propriamente bisogno in termini di conti pubblici e in termini anche di crescita economica, e forse insomma qualche stimolo fiscale non farebbe male nemmeno al resto d'Europa, c'è qualcuno che le tasse le taglia, e questo qualcuno è un paese che non è proprio, e ne parlavamo anche ieri, in una condizione di bilancio pubblico eccellente. Sono gli Stati Uniti, e questo è il nostro prossimo tema. Più che un taglio, è la legge che prevede l'estensione per i prossimi 2 anni degli sconti fiscali creati nella cosiddetta era Bush. È stato un compromesso tra Barack Obama e i leader repubblicani, appunto, sui tagli fiscali per tutti, compresi quelli che hanno redditi sopra i 250 mila dollari, meno del 5% della popolazione. Tra l'altro ci sono 122 deputati democratici ad aver votato contro, ma il loro voto evidentemente non è servito. Saluto il professor Michele Boldrin, docente di economia all'Università di Washington. Buonasera, professor Boldrin. Buonasera. Allora, alla Washington University di St. Louis. Grazie. Ok, Washington University di St. Louis, lo segniamo anche per le prossime volte. Grazie di essere con noi. Innanzitutto, la prima domanda è naturalmente il senso di tutto questo. Immagino che sia il ragionamento che possiamo fare di base, e che è legato a come è strutturata l'economia americana, cioè essendo un'economia per il 70% circa, se non erro, se non vado errato mi corregga se sbaglio, dipendente dai consumi, ovviamente i tagli fiscali hanno un impatto molto forte sull'America rispetto a quanto non ne possano avere da noi, no? No, nel senso che la ragione di questo accordo è tutta politica, non c'entra niente l'economia, farà danno, ma siamo in una situazione in cui purtroppo, una volta ancora, niente di nuovo, le ragioni della politica e del breve termine della politica vincono su quelle dell'economia e della crescita. e quindi Barak, non so se è arrivata la notizia in Italia, dico scherzando ovviamente, ha perso le elezioni, l'ha persa la grande, e negli Stati Uniti il budget, sia la spesa che le imposte, non le cambia il presidente deve avere l'accordo del congresso, il congresso è solidamente in mano repubblicana, ha fatto l'accordo. Purtroppo ha fatto un accordo all'italiana, mi ricordo esattamente le cose che si facevano negli anni 70 e negli anni 80 in Italia, che hanno causato l'enorme crescita del nostro debito pubblico, che è venuta tutta in quei due decenni, dall'inizio degli anni 90, è stabile rispetto al PIL. Qual è la soluzione? Lui voleva estendere i sussidi di disoccupazione, ridurre leggermente i contributi sociali per le fasce più deboli. I repubblicani hanno fatto una questione di principio che non si aumentano le tasse nel senso di imposte sul reddito, e quindi l'accordo è stato: facciamo più debito, così diventiamo contenti tutti e due. Tutti e due andiamo dai nostri elettori a dire: ho vinto. Ok, quindi senso essenzialmente politico. Posto ciò, io le chiedo gli effetti economici, perché da quel che abbiamo capito, i calcoli dicono che dovrebbe valere una cosa che dovrebbe valere circa 900 miliardi di debito in più, e per un paese che è già ampiamente indebitato, naturalmente non a livello dell'Italia, non a livello della Grecia, che però, insomma, per il quale le casse dello Stato, insomma, non sono in ottime condizioni. E infatti l'effetto si è già cominciato a vedere, molti discutono in questi giorni sulla tendenza al rialzo dei tassi di interesse sul debito pubblico anche americano, sia di medio termine sia di lungo termine. C'è tutto un dibattito anche sulla stampa internazionale se questo ha molto a che fare con la decisione della Fed di iniziare questo quantitative easing numero 2 di acquisto di 600 miliardi. Io direi che una delle determinanti e fondamentali è questa decisione invece federale del governo e del congresso di aumentare il debito pubblico in maniera sostanziale negli anni a venire. Tutto cambierà secondo me dopo le elezioni presidenziali del 2012. Però per momento, per i prossimi due anni, abbiamo debito aggiuntivo. Questa mi sembra l'effetto principale. L'effetto principale visibilissimo è sui tassi e li fa crescere. 900 miliardi, lei tenga conto, queste proiezioni, il CBO, il Congressional Budget Office, le fa sempre nel lungo periodo. Quindi questi 900 miliardi non sono tutti l'anno prossimo, neanche l'anno dopo. Questo è un calcolo, diciamo così, all'infinito. Quindi è una stima molto un po' esagerata, però è certo che l'effetto è di ampliamento del deficit, di ampliamento del debito, non c'è dubbio alcuno. Non credo vi sia nessuna reazione positiva sui consumi, credo che francamente tutto questo, questa continua credenza nel keynesismo un po' sciatto che la ripresa economica viene facendo deficit, spendendo a destra e a manca, non se lo crede più nessuno, neanche negli Stati Uniti. C'è Paul Krugman che per ragioni ideologiche continua a ripeterlo tutti i giorni sul New York Times, ma se lei legge il dibattito che ha seguito negli Stati Uniti questa decisione, nessuno, assolutamente nessuno, se n'è uscito con affermazioni del genere, anzi tutti siamo abbastanza preoccupati nel lungo periodo, ma tutti anche capiscono che è una decisione che dura per un anno e mezzo, se ne ridiscute tutto dopo novembre del 2012. È una mossa politica, quello è l'effetto. Il costo a breve termine, ripeto, sarà questo di un aumento del tasso di interesse che già stiamo osservando. Sì, che già stiamo osservando. Tra l'altro di questo ne abbiamo parlato ieri, appunto, si è aperto il dibattito su a cosa sia dovuto questo aumento dei tassi di interesse anche per i treasuries americani, e appunto siamo ben contenti di ospitare la sua opinione, che ci sembra tra l'altro assai credibile vista in quest'ottica. Allora, invece, ecco, il fronte dei cosiddetti più ricchi, no? C'è questo taglio delle tasse che riguarderà anche chi guadagna oltre 250 mila dollari l'anno. Anche là la questione è evidentemente politica, perché chiaramente, no, una cosa fatta per trovare l'accordo per i repubblicani. C'è anche qualcuno che dice questo in parte può avere un effetto benefico, nel senso che abbassare le tasse ai più ricchi può spingerli molto semplicemente a pagare un po' di più le tasse, insomma, a tirar fuori un pochino di evasione. Ma guardi, l'evasione, capiamoci, l'evasione statistica non è una cosa come qui, ce n'è ben poca, in Italia c'è elusione, infatti io spero, e credo molti di noi li sperano, ci stanno lavorando ancora, che questa decisione di mantenere le imposte, diciamo, formali, no? Le quote di imposta costanti si accompagna con una revisione seria delle esenzioni. Le persone che guadagnano quel tipo di redditi hanno a disposizione negli Stati Uniti esenzioni sostanziali. Questo permette più che evasione, elusione sostanziale, che rende il tutto, adesso il discorso è lungo e complicato, insomma io non la trovo dal punto di vista strettamente dell'efficienza economica raccomandabile, quindi si spera di recuperare qualcosa da quel lato. Non c'è molta evasione ai livelli alti di reddito negli Stati Uniti, mi creda, l'evasione media è bassa, l'evasione sta tutta nei redditi medio-bassi, in parte è comprensibile, quell'evasione fisiologica, cosa vuole, che magari ci avessimo quella in Italia, le stime dicono che pari al 10-12% del PIL, tenendo conto che in Italia parliamo del 28%, ed è poco evitabile, quella del cameriere, la donna delle pulizie, insomma, questo tipo di lavoro. No, non credo sarà quello l'effetto. La decisione politica, francamente, se vuole la mia opinione, io credo che forse sarebbe stato ragionevole, ma per pure ragioni di giustizia sociale e se vuole anche un po' simboliche, aumentare le imposte su redditi molto alti, e cioè superiori al milione, perché deve anche tener conto che quando lei guarda questi indici di diseguaglianza americani, bisogna saperli guardare con un minimo di attenzione tecnica, sono molto determinati da una forte concentrazione di redditi altissimi che prendono molte poche persone, non è tanto i redditi superiori ai 250, sono i redditi superiori ai 2-3 milioni che sono aumentati in maniera vertiginosa, non in numero ma in quantità. Grazie, grazie al professor Michele Boldrin, che dobbiamo salutare perché la trasmissione si sta chiudendo, docente di economia all'Università di Washington St. Louis, e stavolta speriamo di averla detta giusta. È tutto anche per questa puntata di Focus Economia, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, a Paolo Corleoni in regia. La trasmissione torna lunedì dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.